Blu Radio Sera. Siamo in ritardino questa sera, in questo istante le 21:17 minuti, ben ritrovati su Blu Radio Veneto. Sergio Bortolami alla parte tecnica, come si usa dire, dall'altra parte del vetro c'è Maurizio Calzavara. Buona serata Maurizio. Buonasera Sergio, buonasera ai nostri ascoltatori. Eccoci qua. Questa sera siamo in diretta con... da quanto tempo è che non abbiamo un gruppo delle nostre parti? È parecchio tempo. Beh, dalle nostre parti un mesetto circa mi pare. Ultimamente abbiamo spaziato molto in altre regioni e questa volta torniamo nel nostro Veneto insieme ai Mi sa che nevica. Pronto? Pronto, ciao, ciao ragazzi. Ciao Walter. Siamo qui, ci sentite? Certamente, benissimo, ci sentiamo, benissimo. Come no? E dobbiamo svelare una cosa, Mi sa che nevica è il gruppo che... di cui il portavoce Walter, vero Walter? Sì, ciao Maurizio. Ciao, come stai? Bene? Ma stasera è un po' meno bene, vero? Il motivo è quello. Morale, oggi li sentiamo solo telefonicamente perché? Perché loro dovevano venire a suonare stasera proprio alle 21 col Rock Wave in concerto dal vivo. Però sai, Sergio, la tosse e i mali di stagione e questo è tutto praticamente. È stata colpa del MEI. Parliamo un momento del MEI, visto che siete stati al MEI. Sì, siamo stati con la Soviet Studio, la nostra etichetta aveva lo stand e siamo andati giustamente a presenziare, anche perché è uscito il 26 novembre il nostro EP e quindi era ottimo quel weekend anche per andare a testare qualche commento, a vedere un po' l'atmosfera. Sono state due belle giornate. Di questa band, da dove è nata? Le origini, dai. Le origini di questa band. Tu sai, sono già venuto a trovarti, certo, con un'altra band, con i Disfunzione, che erano la mia prima passione, insomma, e dopo 10, forse anche 11 anni di convivenza abbiamo preso delle strade diverse, in primis proprio per delle esigenze artistiche. Io avevo voglia di fare qualcosa sempre di cantato in italiano, sempre di indie pop, chiamiamolo così se vogliamo restare in genere, però avevo voglia di qualcosa di più scarno, di più minimale, ma allo stesso tempo un po' più dinamico, più punk, fra virgolette, anche se si può chiamare così la nostra musica, che è anche un po' mista al cantautorato. E quindi siamo arrivati poi quasi all'esigenza di suonare in tre, di avere questo suono un po' più minimal, e siamo contenti dell'EP intanto che è uscito. Abbiamo avuto delle soddisfazioni inizialmente che, ti dico la verità, non ci aspettavamo. Quindi Walter Zanon, che sei te, poi assieme a te stasera in casa tua chi c'è? C'è lo storico batterista dei Disfunzione, Antonio Marco Miotti, il dottor Antonio Marco Miotti. Ciao Maurizio, ti saluto e sono felice di ritrovarti. Anche per me, ciao. Solo via Etere, però poi recupereremo. Certamente, avremo l'occasione di recuperare, vero Sergio? Direttamente live. Io volevo chiedere una cosa ai ragazzi qui. La vostra età media? Guarda, per rispondere al più giovane allora, che è il nostro bassista Marco Amore. 24 anni. Ecco, te lo passiamo un attimo. Ciao Maurizio, piacere. Io sono Marco e ho 24 anni. Ma tu sei giovane. No, perché prima Walter, mi pare, parlava di Disfunzione con i quali ha collaborato, ha suonato insomma per 12 o 13 anni. Sì. Tantissimo, quindi penso che abbiate iniziato parecchio giovani. Io parlo da quello che non sa. Sì, sì Maurizio, abbiamo cominciato da giovani, avevamo io 16-17 anni e Luca, i fondatori della band, aveva 3 anni meno di me. Pensa un po', ormai sono arrivato alla veneranda età di 33 anni, insomma 34 fatti in ottobre anche. Come me. Mi ha dimenticato il 34. Come me. Io ne ho solo 20 di più, hai capito? Dicono che stiamo appena iniziando la nostra adolescenza, Maurizio, quindi non preoccupatevi, anche 20 di più siamo... Io comincio già a farmi le paturnie su cosa devo fare, cioè cosa sposarmi... Cosa? Su cosa farai da grande, dici? Eh sì, no, parlo io Sergio che ne ho 34. Ah, anche tu ne hai 34? Sì, sì, sì, sì, sì. Abbiamo un cosiddetto piede nella fossa. No, no, dai, scherzo. Ok, certo. Parliamo un momento dell'idea di questo album, Walter. Sì, guarda, anche le tematiche... Molto punk, giustamente punk, molto un po' decisamente diverso, non dico lontano, però... Bravo, tu hai ascoltato... È diverso dal genere progetti, prima. Dopo, alla fine, ti chiederò anche l'impressione proprio che hai avuto. L'idea anche sulle tematiche che hanno accompagnato la musica un po' più grezza, fra virgolette, più ferragliosa, ci siamo allontanati un po' dalle tematiche di disfunzione che erano prettamente delle tematiche romantiche, era trattato l'amore, il rapporto di coppia, i rapporti interpersonali, insomma, anche se magari in vari lati, in varie sfumature. E qui forse è l'età, bisogna chiedere anche a Sergio qua, non lo so, forse il periodo storico che stiamo vivendo, c'è stata un'esigenza diversa, insomma, c'era una rabbia diversa nel raccontare le storie che sono di fondo a questo EP. E non so se è una cosa che hai respirato adesso l'ascolto, questa era un po' l'intenzione iniziale, quello che stava nascendo anche abbastanza spontaneamente dalla nostra sala prove. E sì, abbiamo respirato anche inizialmente un titolo molto forte, la mia prima guerra fredda, quindi insomma, come il titolo dell'LP, cioè un sì, titolo forte, potente secondo me. Diciamo che un po' i trentenni attuali siamo cresciuti con... durante la guerra fredda, insomma, no? Sì, praticamente. E io ho un ricordo, anche se sfumato, di quel periodo e di come si è poi sviluppato, e non so dirti se la gente aveva più paura al tempo, che c'era questa minaccia incombente dell'atomica, certo era una cosa con cui vivere non semplice. A me angosciava. Angosciava sì, sì, però non è che forse adesso la gente per altri motivi o per delle situazioni che si stanno creando, soprattutto anche qui in Veneto, è angosciata, comunque ha paura, stanno nascendo anche delle strane reazioni. È una cosa più... La seconda guerra fredda, insomma, questo... È una cosa più subdola, secondo me, adesso, più sì, insita infatti... nella società. Esattamente, non sì. È che la prima guerra fredda forse faceva più paura, però era un po' più attaccata a delle ideologie, sì, a qualcosa di più vivo, che non sia appunto qualcosa di più subdolo, ora di più, non lo so, un'impressione così, insomma. Walter, iniziamo a sentire qualcosa da questo EP, e che molto traccia così vuoi far sentire? Beh, io partirei... Partiamo con Gomez? Partiamo con Gomez, che è in classifica Blu Radio. Esattamente, in classifica, grazie Alberto, è stato messo in classifica Blu Radio, benissimo. Bravissimo, Alberto Prisco, che lo ringraziamo. E lo salutiamo. Sì, un bel pezzo, un pezzo trascinante. Lo sentiamo poi ne parliamo assieme, cosa dici? Grazie mille, Maurizio. Ok, vai. Allora sentiamo i Mi sa che nevica con Gomez. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Parigi, Giulia mi ha detto. guardi il mondo a metà per non essere accecato dai contrasti che hai creato. Ora tocca a me, ora sono un uomo, il mio momento d'oro da vivere per fare quello che voglio. Mi basta un giorno per avere Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. La serata giusta questa per avere un gruppo come quello che stiamo ospitando, visto che parlavano proprio del fatto che potrebbe nevicare in questi, esatto, in queste ore. Sì, sì. Mi sa che nevica. Blu Radio Veneto nel corso di Blu Radio Sera. E Maurizio. E nella recensione che è stata fatta ho letto che ci sono delle influenze legate, passaggio praticamente i Libertines che si accompagnano ai Coldplay o ai Belle Sebastian. Cosa dici? Sì, c'è una frase nel nostro comunicato stampa. Esatto, che... ringraziamo proprio chi ci ha mandato il comunicato stampa. Sì, stiamo lavorando con la Lunatic, che tra l'altro... Esatto. Ringraziamo, abbiamo scelto come ufficio stampa e poi ti racconterò anche della Dischi Soviet Studio. Sì, che è un'etichetta nata da Iria Fiora praticamente. Bravissimo, bravissimo. Senza la quale non esisterebbe adesso il nostro EP, dobbiamo dire, ma i ringraziamenti li facciamo alla fine. Facciamo alla fine. Allora, spieghiamo questa contrapposizione, questo collegamento tra i Libertines, più Libertines che non Coldplay, Walter, cosa dici? Sì, il comunicato stampa della Lunatic dice proprio che ci allontaniamo forse un po' rispetto alla nostra... la vostra matrice praticamente. Dall'avventura con il Disfunzione riguardo a certo pop britannico. Poi c'è una frase che reputo sia stata messa poi in maniera simpatica, i Libertines che cercano di suonare dei pezzi alla Belle Sebastian. Esatto. Effettivamente c'è un po' questa contrapposizione, questa mistura di un suono, come ti dicevo prima, più minimale, più rock and roll forse da certi punti di vista, un rock and roll scarno, quasi garage in certi suoni, e quello che è il nostro gusto per la melodia, il gusto per la canzone di per sé, perché quello comunque sempre alla fine cerchiamo di scrivere. Ed è un po' anche, secondo i primi estimatori della band, anche il nostro punto di forza. Certo, la melodia esiste, viene fuori, forse riveduta e corretta, però è essenziale anche per questa band, chiaramente, per te Walter, per i tuoi componenti della band. Com'è nato Gomez, l'idea di questo pezzo, che può essere un singolo potenziale, che fa muovere la gente, nonostante tutto? Sì, dal vivo prende anche un andazzo molto più veloce, dopo che l'abbiamo registrato le prime volte in qualche, sai, videotape fatto così, amatoriale, sembrava un po' un pezzo dei Ramones suonato da una band twip hop, mi piace molto come risulta dal vivo. Non ha nessuna parentela con i Gomez Band, Gomez? Sì, Gomez non è un riferimento alla band, questo è un caso specifico, in quanto più a un nome immaginario, insomma. Il personaggio della band, sì, il personaggio, scusami, del brano, nei vari momenti tra il ritornello e la strofa, vive la prima guerra fredda in vari posti del mondo, insomma ci sono delle piccole sensazioni brevi tratte da quegli anni, insomma, da El Salvador alla Mexican Murder, che era una droga che faceva vittime in quegli anni, insomma, un'eroina killer che faceva vittime qui in Europa, come lì, insomma, delle cose che ci accomunavano e anche in diverse parti del mondo. Forse poi il ritornello è un po' polemico con la nostra passata generazione, ancora una volta parlano i trentenni attuali e criticano un po', forse, o si sentono un po' impotenti davanti alla situazione perché non sanno più cosa desiderare. Ecco, questo è un po' quello che può trasparire dal brano, insomma, per cercare di estrapolare un significato che vada al di là delle immagini che si vogliono creare con le parole. E il pezzo l'avete scritto assieme o è un'idea partita da te che poi anche hanno sviluppato gli altri due componenti? Ma in questo primo lavoro siamo partiti dagli scheletri che avevo di pezzi fatti con la chitarra acustica e la voce. E anche se io dico la verità, ho bisogno sempre di una spalla per scrivere, poi sono stato trasportato nella composizione proprio dal basso e la batteria, e questi due ragazzi, Antonio e Marco, suonano per la prima volta insieme in questa band, e ti dico, è un annetto, insomma, che siamo in sala prova insieme, ma c'è stata, almeno a parer mio, un'intesa ottima, che ha creato anche delle atmosfere un po' particolari sotto, appunto, i miei scarni giri di chitarra. Poi c'è una cosa interessante, sempre nel libretto che ho visto, le influenze citate, Replacement. Sono molto contento che abbiate citato Replacement, che è una grande band, e il suono di Replacement è un suono che molti, tra virgolette, hanno copiato o si sono ispirati a quel suono, secondo me. Guarda, io mi aggiungo alla... No, ma non è copiato nel senso negativo, è ispirazione. Sai, quando scrivi con qualcuno cerchi anche di poi prendi anche gli strumenti in base a un suono che ti piace, no? Quindi è quello poi che si va a creare. I Replacements sono per me, sia a livello di sound che di scrittura, un'influenza importantissima degli ultimi due anni, come lo sono stati altri gruppi altre situazioni che non ero abituato ad ascoltare prima, parte del garage rock o la Slumberland Records, che è un'etichetta che non so se conosci, ma sì. Presumo di sì, che ha buttato nel mercato dei dischi interessanti, molto interessanti negli ultimi anni, da The Lodger, che poi sono in classifica con noi, mi fa strano dirlo, proprio a Blue Radio, certo. Poi The Pains of Being Pure at Heart, insomma delle situazioni interessanti che hanno portato anche un po' uno stimolo diverso a delle produzioni che per un lustro sono state molto simili, insomma c'è stato un po' di ferma, poi all'inizio 2000 ci sono stati gli Strokes, sì. Interpol, quella vivacità. Poi si è soffermati un po', dopo gli Editors, il successo commerciale degli Editors, quel tipo di produzione è stata ripetuta, a parer mio, insomma, a parer personale, forse un po' troppe volte. E questo tipo di mentalità, di attitudine ha dato un po' una svolta. Ecco. E per ritornare al May, cosa avete suonato al May? Come vi siete esibiti al May? Ricordiamo che cos'è il May, puoi ricordarlo te, sì, a chi non lo sa praticamente. È il festival delle etichette indipendenti, cosiddetto, delle etichette indipendenti italiane, ma ormai è diventato una fiera grandissima in cui ci sono stand di radio, di TV indipendenti, di etichette. Noi non abbiamo avuto quest'anno, proprio perché uscivamo a un giorno dal May, la possibilità di esibirci. Siamo stati come spettatori di live e soprattutto accompagnatori della situazione che è la Dischi Soviet Studio, appunto, di cui ti parlavo prima, che è la nostra etichetta, ma è anche un collettivo di gruppi, insomma una situazione che è stata messa insieme come catalizzatore, appunto come organizzatore iniziale. Ci sono i riaffiora nella figura del buon Matteo Maranduzzo, che è venuto qua più una volta a suonare, mi ricordo, che conosci bene, certamente. Conosci bene anche Matteo, e veramente ha dato una spinta alla scena, chiamiamola così, a quei gruppi che avevano qualità, che erano stati anche riconosciuti da parte degli addetti ai lavori, ma che non avevano la possibilità di avere un minimo di promozione sotto. E ti dico, grazie alla Dischi Sove Studio abbiamo registrato il disco praticamente a spese loro, e abbiamo potuto così risparmiare qualcosa per investire nella promozione. Purtroppo ho visto in anni, insomma, che ho suonato, che fare un prodotto anche ben curato, bellissimo, e poi non lo può sentire nessuno perché non è pubblicizzato, non è poi così un bene, insomma, per la band. Certo, vero. Facciamo intervenire un momento, Sergio. Cosa ne pensi del ritorno a queste etichette indipendenti, questo di fare gruppo come una volta con gli anni 70? Una sorta di collettivo. Esattamente, una sorta di collettivo. Aumentano anche, insomma, le esperienze, aumenta il confronto tra esattamente le band. Sì, possono, molto d'aiuto, certo. Possono, penso, nascere anche buone cose che da soli non salterebbero fuori, insomma. Certo, guarda, la prima uscita della Dischi Soviet Studio è stato l'EP di Francesco Cerchiaro, La Belle Époque, che ha avuto recensioni su Blow Up, su Rockerilla, è stato molto apprezzato. Poi questa è la seconda uscita ufficiale della Dischi Soviet Studio, e aspettiamo, penso per massimo marzo, il disco di Riaffiora, che deve essere una cosa... Il capogruppo, possiamo dire questo. Esattamente. Ok, Walter, cosa dici? Un altro pezzo dalla EP, a tua scelta. Guarda, avrei piacere se facessi ascoltare La Crisi dei Vampiri. Che è la traccia, ti ricordi? La prima traccia. Ah, traccia prima traccia, sì. Perfetto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ancora bene di chi o di cosa. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. 21.42, buona serata su da Blu Radio Veneto, siete su Blu Radio Sera con i Misaki Nevica in diretta telefonica. Maurizio. Ok, Walter, ci sei? Eccoci qua, siamo benissimo. Qui. Una mia curiosità, c'era la possibilità di venire a suonare in acustico o in elettrico qua, Walter? Guarda, noi sinceramente preferiamo e usciamo in prettamente in elettrico, ma c'è la possibilità, volendo anche di fare l'acustico, però ti dico, se potessimo scegliere l'elettrico sicuramente. Però la dimensione acustica poi piace, Walter, ti dico perché tante altre band che sono venute qua a suonare avevano l'elettrico come punto di riferimento, poi sono venuto di qua e l'elettrico si è trasformato in acustico e sono state contentissime. Cioè l'acustico è molto importante, qua, cioè, è sicuro comunque l'esperienza acustica è fondamentale, secondo me fondamentale anche per l'esperienza elettrica. Non so se sei d'accordo, se sono d'accordo sì. i tuoi amici presenti a casa tua stasera. E noi paradossalmente siamo partiti come gruppo acustico, se possiamo dire, perché i primi concerti li abbiamo fatti veramente con la chitarra acustica, un po' di percussioni e il basso al limite amplificato un po' elettrico, quindi sì, le canzoni le abbiamo provate così all'inizio, almeno nel tentativo di proporle fuori, poi abbiamo riarrangiato il tutto in chiave elettrica, però siamo ancora pronti a esibirci anche da questo certo punto. E voglio chiedervi, come nascono le canzoni vostre? Da una nota, da un riff, come nascono? Come il cioè le canzoni come si sono sviluppate, come sono nate? Chiaramente poi sono state arrangiate, eccetera, però come nascono, come base praticamente? Allora, fino adesso il processo si è verificato in questo modo, e in sala prove ci troviamo tutti e tre di solito Walter parte con alcune idee che si era già suonato in precedenza e quindi esce con il classico giro di chitarra a cui magari affianca già una linea vocale, e a quel punto iniziamo a sovrapporre le parti di basso e di batteria, iniziamo a lavorarci un po' sopra, e poi ovviamente sotto l'influenza, anche un po' lo stimolo che possiamo dare io e Marco, cambiano anche, poi possono cambiare anche gli accordi di chitarra o l'intenzione della voce o altre cose, e pian piano ci influenziamo a vicenda fino ad avere un'amalgama, insomma. Sì. Giusto, giusto. È una situazione assolutamente democratica, quindi, al 100%. Sì, sì. Diciamo, non ci sono discussioni. No, non ci sono mai state discussioni, e siamo credo tutti e tre molto contenti di questo discorso che abbiamo intrapreso, perché in tutte quelle che sono state le fasi della composizione, ma anche poi della registrazione e della promozione dell'album, ognuno ha avuto la possibilità di dirla sua ed è stato sempre ben accolto dagli altri, e credo che questo faccia bene al nostro gruppo, perché insomma avere tre teste può essere un vantaggio alla fine, piuttosto che una sola. Poi le nostre teste funzionano come una sola, perché abbiamo un terzo di cervello. Ma no, un terzo ciascuno. Esatto, per forza di cose dobbiamo metterli assieme. Benissimo. L'album è di recentissima uscita, perché è uscito il 26 novembre, quindi qualche giorno fa praticamente. Esatto, noi abbiamo un aneddoto pronto per il... Vai, dimmi per questo aneddoto. Dunque, la nostra band Misaki Nevica è uscita il 26 novembre, e c'è stato questo avvenimento che definiremo una coincidenza veramente piacevole. Proprio il 26 novembre mattina è iniziato a nevicare, cosa che non succedeva qua da l'inverno scorso, credo. E quindi c'è stata questa collaborazione tra un po' Misaki Nevica e gli agenti atmosferici che sono stati dalla nostra parte, ci hanno dato una mano in fase di promozione. Ecco, questa è una cosa molto curiosa e piacevole. Decisamente, esattamente. Facciamo sentire un altro pezzo, cosa dite ragazzi? Sì, assolutamente. Che brano adesso scegliamo? Pronto, mi sentite? Sì, adesso passo a Walter di nuovo. Ok, Walter, ok, eccolo qua, adesso arriva Walter. Guarda, io farei proprio come diceva Antonio, una cosa democratica. Marco, cosa vorrebbe sentire? Marco, Silvio Silver, Antonio? Va bene, ti va benissimo, e ci può stare anche per me. Silvio Silver è quella che chiude il nostro EP. Perfetto. Blu Radio Sera. Il mio amico si crede meno strano di me. Per questo vista il pungiglione e la sua ape blu tatuati sul braccio. Blu Radio, il Veneto come non l'hai mai sentito. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Sempre con i Mi sa che nevica su Blu Radio Veneto all'interno di Blu Radio Sera in questo martedì 30 di novembre. Maurizio, io e Sergio, mentre il pezzo andava, abbiamo votato sicuramente un brano molto significativo, forse il migliore dell'album, a nostro parere, a mio parere, anche a parere di Sergio. Molto bello, molto significativo, molto anni 80, un po' questa chitarra, un po' alla Smith, lontana, ma anni 80, fatto molto bene, complimenti. Ti ringrazio, è sicuramente un pezzo che ci piace molto. È anche da ballare, esatto. È un'anima del gruppo che si rifarà risentire nel nostro primo LP. Questa è una chicca che possiamo darti in anteprima. Bene, bene. No, è un pezzo molto trascinante, giustamente. Sì. Sergio ha detto da ballare, da far muovere la gente, insomma. Sì. In modo intelligente, però far muovere, quello sì. Sì, vi ringraziamo, sono Marco e vi dico che per renderlo ancora più interessante, voi nella registrazione sentite anche qualche piccola nota di basso, ma dal vivo la facciamo proprio con due chitarre e la batteria per creare, appunto, come dite voi, ancora più questo effetto ballabile o comunque trascinante, ecco, perché le melodie di 12 corde anziché di 10 sono più articolate, diciamo, più come posso dire, possono creare di più. Esatto, sì, esatto. Sì. Sono melodie che poi vengono un po' distorte, bagnate da qualche giro un po' strano, un po' sporco nel live, oppure no, rimangono così? Ma guarda, in realtà io quando suono la chitarra cerco di rimanere il più pulito possibile. E per dare, appunto, anche questo effetto un po' Smith, come dicevi prima. Sì, esattamente, no? Esattamente. Un ottimo effetto, chiaramente. Grazie. E qualche invece nota più crunch la fa Walter nei suoi riff. E, no, anche perché io non ho mai capito il perché. Cioè, quando ascolti un pezzo su disco è una cosa, vai a vederlo dal vivo è tutta un'altra cosa. Ma tu avevi apprezzato inizialmente quello del disco. E sì, quindi, no, dico, ti do atto che, insomma, secondo me è positivo che mantieni lo stesso suono, più o meno, sì, insomma, sì, sì, sì. No, no. Di quando avete registrato. Sì, diciamo che è un buon matrimonio, quello della ricerca del suono, uno pulito e uno un po' più crunchato. Sì. Una cosa che insomma ci dà i suoi risultati, ecco. Sì, sì, esattamente, sì. Però è anche, non è semplice, però è anche meritevole in alcuni, qualcuno potrà dire è meritevole, qualcun altro potrà dire no, che quando si suona dal vivo si avvicina molto al disco, qualcuno potrà dire sì è bello, qualcun altro no perché il live dovrebbe essere un po' diverso, non so. Guarda, sono Walter, sono di nuovo Walter. Sì, dimmi. Io sinceramente quando vado, il nostro live è molto vicino, insomma, per quello che è la nostra ricerca, poi all'esecuzione del pezzo. Niente lunghe introduzioni o finali lunghissimi, cioè, ripetiamo in maniera quello che è il momento poi che si vive là in ogni concerto, chiaro, però l'esecuzione di quello che abbiamo cercato di fare in registrazione, che poi è stata una ripresa live. Quindi con questo progetto siamo abbastanza attaccati a riprodurre il disco come è suonato, insomma, nell'EP. Chiaro che se poi, per esempio, sono andato a vedere il concerto dei National a Milano, sì. È stato un concerto bellissimo. C'è stata qualche piccola variazione, sai, qualche chicca che respiri, però sempre quello schema del pezzo solito, e magari quella è una cosa molto bella, però sono delle, capito, delle sfumature, ecco, a me almeno piace questo. Poi, cioè, hai detto giustamente, c'è anche chi preferisce il concerto stravolto, diciamo, no? Sì, esattamente, però in genere più si avvicina al disco è meglio, la gente impara a conoscere il disco, poi con il tempo si può allargare, si può contaminare, si può cambiare, però all'inizio è meglio, secondo me, avvicinarsi al pezzo. Ricordiamo anche che è un EP di esordio il nostro, in questo caso, quindi, sai, vieni ad ascoltare un gruppo appunto che magari ti ha incuriosito perché hai ascoltato i pezzi su MySpace o hai appunto avuto l'EP tramite iTunes o in qualche maniera, e poi ti trovi tutta un'altra cosa, no? Inizialmente secondo me non è piacevole. Ecco, a proposito, dove si può trovare il vostro EP? Allora, come ti dicevo, è in distribuzione sulle piattaforme digitali, insomma iTunes in primis, poi si troverà chiaramente ai nostri concerti, e comunque si può ascoltarlo per intero sulla nostra pagina MySpace, che è www.myspace.com/mi sa che nevica. Perfetto. E da oggi mi sembra postato anche sul sito Rocket, c'è la possibilità di ascoltarlo per intero, insomma c'è più di una possibilità di sicuro di ascoltarci, poi di avere il supporto, insomma ci sono queste due chance, o ordinarlo direttamente dal sito dell'etichetta Solid Studio o appunto su iTunes o ai nostri live. A proposito dei vostri live, avete già qualche data pronta? Allora, sai, come etichetta, come ufficio stampa siamo molto organizzati, come live stiamo cominciando a lavorare adesso, faremo una presentazione dell'EP proprio insieme a Iria Fiora, quindi una serata a Dischi Soviet Studio, a un locale che si chiama Joel, proprio dentro le mura a Cittadella. È un locale molto intimo che però ha un palco interessante, anche un'acustica buona, insomma, per sentire un live elettrico, e saremo lì il 10 di dicembre insieme a Iria Fiora. Bene, è già positivo, cioè già si comincia. Sì, già si comincia, abbiamo fatto già pre-EP un 5-6 6 live, abbiamo fatto una serata molto bella con i Junction, che è un altro gruppo garage pop dell'etichetta Soviet Studio, che canta in inglese. Abbiamo fatto una serata al vinile che è stata molto molto frequentata anche dalle persone, già in orario, insomma, non ci aspettavamo un'accoglienza così, già, cioè, il vinile si arriva più tardi, alle 11:30 già c'era la gente che aspettava di vedere il concerto. Quella è una bella soddisfazione. Eh beh, sicuramente. Ok, facciamo un altro pezzo, poi concludiamo l'intervista con te, Walter, qui componente, certo, della band. Certo, certo. Mi pare che non abbiamo scelto 1984, vero Sergio? Manca anche, però, scusami se te lo chiedo, ma preferiremo, anche se mi dispiace non sentire 1984, la riduzione del danno. Perché non sentirle anche tutte e due? No, vabbè. Va benissimo la riduzione del danno. Ok, allora, cosa vuoi far sentire prima? La traccia numero 2. Ok, perfetto. Blu Radio Sera. Sono le 22 e un minuto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Siamo alle battute finali dell'intervista telefonica con i Mi sa che nevica. Maurizio. c'è una bella frase nella scheda che ci ha gentilmente offerto Elena di La Lunatic. Dunque, dei brani, si ispira aria di folk, un folk impregnato di 80s, però gli 80 di quelli che continuano ad usare le chitarre. Una bella immagine questa, Walter. Anche qui c'è stata un po' di ironia, diciamo, per l'ironia fatta nella, bene. Nel comunicato stampa, però è una cosa significativa che hai sottolineato, è un po' il motto di Antonio questo, no? Cioè? Siamo appassionati, sì, degli anni 80, di certo abbiamo ascoltato anche i Depeche Mode, ci siamo innamorati di tantissimi progetti che usavano l'elettronica, però l'affetto e anche la voglia di riproporre certi tipi di canzoni danno la cioè, ci spingono a guardare a quel tipo di periodo in cui c'erano dei gruppi secondo me fantastici, insomma, dagli Smiths che hai citato, ma anche delle cose più nascoste, Field Mice, Orange Juice, c'erano delle cose, insomma, che usavano le chitarre con un suono un po' simile a quello che abbiamo ora. La chitarra, la cosiddetta Dan Electro, chitarra proletaria, che mi sono preso volentieri per il suono e anche per il costo, caro Maurizio. No, ripeti il discorso che all'inizio, la chitarra proletaria in che senso? Cioè, per il costo la chitarra proletaria Dan Electro, proprio perché è una chitarra fatta con del materiale al tempo, diciamo, molto povero, tra virgolette. Infatti i pick-up della prima edizione, se io ho preso una riedizione del 69 se non sbaglio, ed è sono dei porto rossetto, proprio anche adesso sono delle linee di una ditta che aveva scartato delle custodie appunto per il rossetto, ed erano stati inseriti l'elettronica dentro per fare dei pick-up, e era una chitarra che ha segnato il sound di tanti gruppi, insomma, i Ramones stessi e tantissimi tuttora usano la Dan Electro per riproporre un certo tipo di sound, proletaria sicuramente per il costo dello strumento, molto più alla mano di certe marche, magari lo facciamo noi. Fender, Gibson, abbiamo fatto noi. Altrettanto... Sì, d'accordo. E hai parlato dei Ramones, e la vena punk, bene o male, viene sempre fuori. Sì. Diciamo che magari si è staccato da non nomino un'altra volta disfunzione, ma è inevitabile fare magari dei paragoni o nominare la nostra passata esperienza. La parte, diciamo, più punk si è staccato e si è andata poi a sfogare in questo progetto che, come diceva Antonio prima, la cosa più positiva e bella, insomma, di quest'anno che abbiamo passato insieme è l'atmosfera che si è respirata molto molto serena, come ti dicevo prima, durante la composizione ma anche durante la registrazione di collaborazione con Matteo della Solid Studio, che ha prodotto proprio il disco con noi a livello artistico, e c'è stata veramente un'atmosfera a cui forse non eravamo più abituati. Ti domando una cosa, Walter, è stato, quando avete cominciato a incidere nello studio, è stata buona la prima o ci sono state delle ripetizioni? Guarda, soprattutto buona la prima. Soprattutto buona la prima per quanto riguarda la batteria, registrata se non sbaglio in mezza giornata, il basso in un paio d'ore e qualcosa di più due o tre mattine per le chitarre. Poi abbiamo perso volutamente un po' di tempo in più sulle voci, ci è piaciuto giocare, sai, un po' con coi, falsetti e qualche tipo di armonia, che è una cosa che ci appassiona sempre. Però molto molto buona la prima, insomma, sicuramente questa è stata l'attitudine. Ma forse anche per avere un suono più graffiante, come più... Sì, sicuramente, guarda, era non perfettino. Ma assolutamente non perfettino, bravo. non parlo di lo-fi, assolutamente. Sì. Parlo... Nudo e crudo. Così. Nudo e crudo, sì, bravissimo. Sì. Bravissimo. Questi termini che mi vengono così, vabbè. Ma questa è la giusta. Vabbè, il succo è quello, insomma. Sì, sai che ti avevo già presagito che avrei chiesto un commento tuo alla fine dell'intervista, un'impressione insomma che hai avuto totale al primo ascolto, perché magari eri abituato già a sentire la mia voce, magari qua, come hai detto, hai trovato un'altra situazione. Tuo suo, cioè di Maurizio? Sì. Anche se... No, beh, io sono qua per caso stasera. Ha dato il suo giudizio sul disco. È un disco piacevole, però promosso, nel senso... Sì. Cioè, tosto, però melodioso nello stesso momento. E questo è positivo, secondo me. Entra subito nel segno, senza mezze misure. Maurizio sa che io per certe atmosfere... vado invisibile, quindi anni 80, anche più cupe, anche più cupe, sì. Walter, sicuramente, e gli anni 80 riveduti e corretti da voi, però a vostro piacimento, questo è importante. Non ci sono delle copiature, non ci sono le carta carbone, no, c'è la vostra musica, quello, e quello è fondamentale. Fa piacere, questo è l'intento, almeno è l'intento, è proprio quello di andare avanti. Vi siete staccati dalla band precedente, che è stata importante per fare un giudizio musicale, poi lentamente andate per la vostra strada, perché certo. Avete deciso di allargare gli orizzonti, di fare rock un po' più potente, ma non potentissimo, ma più potente, più ritmato, e questo è positivo assolutamente. Buono, ci fa molto piacere e onore il vostro parere. Grazie a voi. Allora, riepiloghiamo. Walter Zanon, il tuo strumento, la chitarra? Sì, sono la chitarra e la voce. Antonio Marco Miotti alla batteria e ai cori. E Marco Amore. Al basso, alla chitarra e ai cori. Benissimo. Non avete le tastiere, però? No, non abbiamo fatto neanche delle sovraincisioni, o per ora non sono state usate per niente. Sinceramente non era nell'intenzione iniziale, magari può essere che nel disco prossimo qualcosa ci sia, per ora non... In questo EP è stato proprio registrato basso, chitarra e batteria. Al contrario dei Keen, che invece usano le tastiere ma non le chitarre, mi pare. Esattamente. Bravissimo. Sostituiscono, bravissimo. Riescono ad ottenere lo stesso suono. A ottenere un suono comunque bello, epico e... Sì. E come si dice, fragoroso comunque, infatti delle volte sembrano delle chitarre, io sono stato più volte lì ad ascoltare perché non ci credevo. Sei andato ad ascoltarli dal vivo? No, beh, nei dischi, per carità, però insomma. Sì, no, assolutamente mancano le chitarre, sì. Anche se non si sente. Salutiamo? Certamente, salutiamo con un pezzo 1984. Possiamo fare i ringraziamenti. Io devo chiederti, cosa c'entra Orwell su questo pezzo? O c'entra qualcosa? Cosa c'entra? Orwell, 1984. C'entra qualcosa? Orwell c'entra al 100%. Ecco, c'entra al 100%. C'entra al 100%, è semplicemente il pezzo, un mio punto di vista sul personaggio del libro di cui ho sempre sentito parlare, ma ho letto in tarda età, insomma non da tantissimo tempo, e sinceramente mi ha colpito molto. Io manco l'ho mai letto, quindi vedi un po'. Lo leggerai, leggerai. Sei ancora in tempo. Finché vivo, il tempo ce l'ho. Non so perché, se è una cosa di cui, sai, senti parlare, conosci, quasi una leggenda, bravissimo. Sì. E poi quando lo leggi te casca tutto. No. Quando lo leggi capisci perché è così conosciuto, e capisci perché in tante situazioni tanta gente è riuscita ad immedesimarsi, purtroppo. Sì. Oibò. Mi metti curiosità, vabbè. Andrò a informarmi e a leggere qualcosa. Ok, grazie Walter. Voleva fare dei ringraziamenti, ha detto. E poi tu l'hai interrotto. Se ci permettete, gli ultimi 30 secondi per ringraziare la Dischi Soviet Studio, in primis, che ci tengo a ripeterlo, senza il loro aiuto non sarebbe stato pubblicato questa EP. E ci teniamo a ringraziare e a salutare anche Fabio Cangia, che è un nostro amico, un ragazzo che ci appoggia in maniera molto molto viva ultimamente, anche attraverso il suo sito portale, che è Rock On, è una cosa molto ben fatta secondo noi, e abbiamo avuto il piacere di essere messi in home page, sfumava la foto dei Beatles e appariva quella di Miss Akenevi. Però, noi insomma... Cosa, alla destra del padre. Alla destra del padre, bravo. Naturalmente immeritatamente, però per una settimana ci hanno fatto questo regalo. Certo. Grazie a Fabio. e grazie a voi di averci invitato. Mi dispiace tantissimo per il live, ma ci sarà, speriamo ci sia la possibilità di venirvi a trovare. Ci sarà un'altra occasione sicuramente di venire a sentire qui dal vivo Walter, Antonio e Marco, chiaramente. Quindi. Grazie mille ragazzi. Grazie a voi. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. L'altro ieri è passato il tecnico per sistemare la frequenza dell'antenna che ho in testa. Il mondo è davvero un posto magnifico, mi ha programmato lo stato, devo ripetere un mantra all'infinito. Sono guasto, non va detto, anzi non va neanche pensato, eri un caso umano. Ora difettato. Radio. Blu Radio, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Sì, esattamente, domani partiremo un po' più tardi, c'è la pallavolo, ti ricordi? Sì, lo dico io, ci sono le partite di pallavolo, quindi la... circa dovrebbe essere verso le 22:15, dipende dai set. Esattamente, dipende da quanti set vanno avanti con le partite di pallavolo. In caso c'è il campionato di pallavolo, quindi ci saranno prima le partite in diretta e poi ci sarà un duo, si chiama Revival, sono un duo di Vicenza e Franco Gallo, sì, due musicisti che hanno suonato dappertutto per un sacco di tempo in diverse formazioni padovane e poi hanno deciso, dopo aver suonato molte cover, hanno deciso di fare un duo, cioè fare una formazione loro con 10 brani inediti. L'Essenza si chiama il disco, che non è, come abbiamo scritto nella recensione, un parente di Essenza di Claudio Rocchi, non c'entra assolutamente nulla. Tre puntate di Claudio, sì, tu te le ricordi? Tre puntate sono state, mi pare tre. tu te le ricordi, perché sei stato il protagonista assieme a me delle trasmissioni. Ed Essenza era un vecchio disco di Claudio Rocchi in cui si mischiava, se mi è consentito il termine, la musica rock con la musica etnica. Era una prima immagine di quel periodo. E i Revival fanno altro genere di musica, molto pop, decisamente pop. Ci presenteranno i loro dischi e i loro pezzi dal vivo, due chitarre, una chitarra basso e una chitarra solista. Non ci sarà la tastiera perché hanno deciso solo due chitarre domani sera. Giovedì avremo un altro live, dalle ore 21 alle 20. Ma i live sono belli, fanno parte della vita della radio, servono per dare vigore, secondo me. Dalle 21 alle 22.30. Assieme ad Agostino Spolaore presenteremo i Fortu. Chi è Fortu? Fortu è un componente di Renoir. Te li ricordi Renoir? Solo lui. Fortu. Praticamente. I Renoir te li ricordi? I Renoir erano anni 80-90. Poi si sono, il gruppo si è sciolto verso i primi anni del 2000. Musica rock wave, praticamente un rock wave anni 80 assolutamente. Poi i Renoir avevano fatto due dischi anche importanti, erano state nelle classifiche indie nazionali ed avevano vinto dei premi notevoli. Erano di Mestre questi ragazzi qua, i Renoir. Non ti sovvengono? No, è di Boccia, qualche anno fa non era assolutamente Boccia. No, 90, tra il 90 e il 2000, cioè all'incirca tra... Cioè, l'idea era anni 80, ma musicalmente si sono sviluppati tra i 90 e i 2000, praticamente. Sì. Vabbè, mica una presa in giro, è solamente un modo per allargare gli orizzonti sonori. E abbiamo parlato dei Renoir, e mentre Fortu, praticamente era uno dei leader della band, ha deciso di... la band si è sciolta e ha deciso di una carriera solista totalmente diversa da quel suono là. Molto cantautorale, ma un cantautorale un po' elettrico, secondo me. Quindi ci presenterà il nuovo album che uscirà nel 2011, è un'anteprima assoluta per noi di Rock Wave, e nella dimensione di Blue Radio Sera, però nella dimensione con Agostino Spolaore. Quindi giovedì si è aperto, i Renoir hanno aperto tempo fa il concerto del Stupido Hotel, cioè praticamente la tournée di Vasco Rossi dell'epoca. Una tournée molto importante, francamente. Sì? E davanti a 25.000 persone non è poco come band emergente. Quindi è un grande onore all'epoca, chiaramente, per i Renoir. Poi i Renoir si sono sciolti e Fortu, questo ragazzo, viene a presentare il suo disco giovedì dalle ore 21 alle 22.30.